te. Sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato. E il cuore mio vorrebbe cantilar. Ogni giorno ti scalda, che splendidi tramonti dipingeva. Adesso brucia solo con furor, tornerà un altro inverno. Cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose, e forse un po' di pace tornerà. Dato il suo profumo di ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire di dolore. Solo con furor tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose. Forse un po' di pace tornerà estate, che ha dato il suo profumo di ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore. Farmi poi morire.